Allora, insomma, l'auto elettrica non è il futuro, come si è letto a Ginevra, la sfida tra le grandi case. L'auto elettrica è qui, è tra noi. Ma sì, ma l'auto elettrica è tra noi, lo è anche da 20 anni. Voi l'avete detto nella premessa. FAM, che è una piccola azienda marchigiana, produce veicoli elettrici da 20 anni. Ne ha portati oltre 3.000 sul mercato europeo e mondiale, perché ne abbiamo dati 35 pure a Pechino per le Olimpiadi Verdi. Tra l'altro, Vitali, se ho capito bene, quello in cui voi siete bravi sono le batterie, no? Infatti. Cioè, infatti, voi sostanzialmente avete potenziato la batteria al litio, che per far capire a tutti gli ascoltatori, sono, cioè, il litio è l'elemento che si utilizza nei telefonini. Esatto. Cioè, il modello è quello dei telefonini, sostanzialmente. Il concetto è quello dei telefonini, esatto. Ma forse possiamo sentire questa scheda, così capiamo meglio chi è Federico Vitali e che cosa fa la FAM. Dal 1974 si occupa di batterie e da almeno una ventina di veicoli elettrici. Federico Vitali, 57 anni, presidente e amministratore delegato della FAM di Monterubiano, in provincia di Fermo, non è un sognatore, piuttosto un precursore. Oggi la FAM, 92 milioni di fatturato, 250 dipendenti, una presenza internazionale che va dal Sud America alla Cina, ha sviluppato una leadership riconosciuta nelle batterie fuel cell per vetture a idrogeno e nelle nuove batterie al litio. Risultato? L'auto elettrica è già qui, è una realtà. Abbiamo superato i vecchi limiti che ne impedivano lo sviluppo, assicura Vitali. Prestazioni e autonomia sono del tutto paragonabili alle auto tradizionali. Insomma, abbiamo messo le grandi case nella condizione di poter lanciare i nuovi veicoli sul mercato. Come dire, noi a monte, grazie alla ricerca e all'innovazione, abbiamo fatto la nostra parte. Adesso tocca a Toyota, Renault, Fiat e a tutti gli altri fare la loro.